Gesù ha detto espressamente che le cose di Dio sono nascoste ai savi e agli intelligenti, ma sono rivelate ai piccoli fanciulli. Con tale affermazione Gesù non ha voluto dire che per comprendere la parola di Dio sia necessaria l'incoscienza e l'ignoranza dei bambini, ma ha voluto intendere che coloro che si ritengono sapienti e intelligenti più di Dio non sono in grado di comprendere ciò che è scritto nella Bibbia, quale parola di Cristo. Con tale affermazione Gesù non ha voluto dire neppure che la Bibbia sia un libro facile, perché l'Apostolo Pietro ha riconosciuto che nelle lettere di Paolo vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti ed instabili torcono, come fanno con le altre scritture, a loro propria perdizione, 2 Pietro 3 e 16. Perciò, quando si legge la parola di Dio, occorre tenere presente questi due aspetti. Il messaggio contenuto in essa non è difficile da comprendere, anche se a volte vi sono passaggi ostici. Nella prima lettera di Giovanni si trova uno di questi brani difficili da comprendere, che a molti studiosi e curiosi ha dato filo da torcere. Leggiamolo. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce a morte, preghi Dio, ed Egli gli darà la vita. A coloro il cui peccato non conduce a morte, vi è un peccato che conduce a morte, non dico di pregare per questo. Ogni iniquità è peccato, ma cecca, è un peccato che non conduce a morte. 1 Giovanni 5, 14-17. L'Apostolo Giovanni sta trattando l'argomento della preghiera. Chi è diventato un figlio di Dio mediante un atto di fede in Cristo quale Salvatore e Signore ha un privilegio che manca all'incredulo, e cioè avere certezza di essere esaudito nelle preghiere quando chiede secondo la volontà di Cristo. Non solo, chi chiede secondo la volontà di Dio sa pure di possedere ciò che ha chiesto. Una simile fede e certezza non ha eguali nella storia delle religioni. E un cristiano che vive il cristianesimo a questo livello è capace, come i 12 apostoli, di compiere opere straordinarie. Se così è, ed è così, la mancanza dei figli di Dio non è tanto quella di peccare, problema questo già risolto da Cristo, ma piuttosto quello di non vivere pienamente ogni promessa di Dio. Merita un attimo di attenzione il concetto secondo il quale il cristiano che vive il cristianesimo al giusto livello sia capace di compiere opere straordinarie. Per noi le opere straordinarie sono opere eclatanti e potenti, come dividere il Mar Rosso o guarire un cieco nato. Ma la scrittura si esprime diversamente. Un solo esempio basta. Quando Gesù andò ad abitare a Capernaum, l'evangelista Matteo riconobbe in questo evento l'adempimento di una profezia. E scrisse, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse: «Il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce e su coloro che giacevano nella regione. E nell'ombra della morte si è levata la luce», Matteo 4, 14-16. Se si tiene conto dell'intera vita di Gesù, gli abitanti di Capernaum furono tra coloro che non riconobbero il Cristo quale figlio di Dio e non videro proprio nessuna luce. Eppure Gesù per la città di Capernaum e per tutti gli altri era la luce di Dio. Così, anche se Gesù era ed è la grande luce, non è successo nessun evento speciale. Nessuno è rimasto abbagliato, pochissimi si sono visti nelle tenebre. Le promesse di Dio devono essere comprese in questa ottica. Detto questo, quando un figlio di Dio prega secondo la volontà di Cristo, è tenuto a credere di essere già in possesso delle richieste fatte, anche se con gli occhi non vede nulla. O poco. Come gli abitanti di Capernaum non hanno visto letteralmente sfolgorare una luce, anche il credente, se non vede adempiersi ciò che chiede, per fede deve credere che ha ottenuto la richiesta. Per fare un esempio pratico, se io chiedo sapienza per una certa situazione, comunque vadano le cose. Sono chiamato a credere che in quel momento ho ottenuto la sapienza adeguata. Anche se non mi sono comportato nel migliore dei modi, Per dare una risposta razionale ad un eventuale insuccesso, si risponde che se non avessi pregato le cose sarebbero andate peggio. È questione di fede. Anche Gesù non ha procurato subito la totale guarigione del cieco, il quale scambiava gli uomini per alberi, ma quel principio di recupero della vista era già una risposta al suo gesto di guarigione. Così pregare per avere sapienza non vuol dire che subito io possa ottenere una sapienza totale, ma se non dubito potrò ottenerne sempre di più. Quando Dio promette non può mentire, perciò dobbiamo mettere in discussione la nostra comprensione della volontà di Dio. Proprio perché vi è una risposta illimitata alle preghiere, Giovanni mette la preghiera in relazione ai peccati. Nel brano letto sono citati tre tipi di peccato, quelli che non conducono a morte. Uno che conduce a morte e uno che non conduce alla morte. Espressioni queste abbastanza difficili. Come sempre, quando ci si trova di fronte ad espressioni difficili, la cosa più saggia è interpretare il testo alla luce dell'intera rivelazione di Dio. La parola morte, benché abbia il solo concetto di separazione, ha più significati, per cui a volte ha il senso di cessazione di vita. Altre volte si riferisce alla condizione naturale dell'uomo non rigenerato, altre volte alla perdizione eterna. Dato che il peccato compiuto conduce sempre alla morte spirituale, Giacomo 1:15, cioè una separazione da Dio, è evidente che i peccati che non conducono a morte sono riferiti a quelli che l'uomo compie ogni giorno e che lo separano da Dio. Se chi pecca dovesse subire l'eterna morte spirituale, nessuno sarebbe salvato. Ne consegue perciò che i peccati che non conducono alla morte sono quelli giornalieri. Quindi, quando un credente vede suo fratello commettere un peccato, è chiamato a pregare affinché questo non porti le conseguenze dei suoi errori, e Dio gli darà la vita, cioè lo riporterà alla comunione con Dio. Questa è l'interpretazione ampia. Se poi uno interpreta che per morte si intende solo la morte fisica, non è del tutto sbagliato, anche se questa interpretazione richiede da parte del credente la conoscenza dei peccati punibili con la morte immediata, per poter in seguito pregare per i peccati che non conducono a morte. Data questa grande difficoltà, è preferibile pensare che Giovanni intendesse riferirsi a tutti quei peccati per i quali nessuna creatura merita la condanna eterna. In effetti l'uomo non va alla perdizione eterna, perché è un peccatore, altrimenti nessuno potrebbe essere salvato, ma perché rifiuta l'offerta di Dio di salvarlo solo per grazia mediante un atto di fede. Il peccato per Dio è un problema risolto perché, come sta scritto, con la sua morte Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. 2 Corinzi 5:19. Ora, se Dio ha riconciliato l'uomo a sé, alla creatura non resta che accettare questa riconciliazione già in atto ed essere per sempre riconoscente. La mancanza di riconoscenza, la necessità di chiedere perdono, dimostrano che non si è creduto e ricevuto il perdono totale di Dio. Rimangono da considerare gli altri due peccati, quello che non conduce a morte e quello che conduce a morte. Come abbiamo detto, un peccato che non conduca alla morte non può esistere, perché il salario di qualsiasi peccato è la morte, Romani 6:23, e per questo peccato Giovanni non dice nulla in merito alla preghiera. Non dice di pregare e neppure di non pregare. Alla luce della rivelazione di Dio è possibile individuare questo peccato nell'eredità che si riceve al momento del concepimento. Il re Davide riconobbe questa trasmissione quando disse: «Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato». Salmo 51:5. Secondo la teologia cristiana, ogni creatura umana nasce con il peccato, peccato che deriva dalla disubbidienza di Adamo ed Eva. Di questo peccato l'uomo non è responsabile e per questo non conduce alla perdizione eterna, anche se questo peccato fa sì che l'uomo nasca separato da Dio. Infine, è da prendere in esame il peccato che conduce a morte. Se nascere peccatori e compiere dei peccati non conduce alla morte, cioè alla perdizione eterna, per forza di cose, un peccato che conduce alla morte non può riferirsi ad altro che alla morte eterna. Quale peccato può portare alla condanna eterna? Quale può essere questo peccato così grave da non poter essere perdonato? Secondo la Scrittura ve ne è uno solo, ed è il peccato contro la persona dello Spirito Santo. Gesù lo disse molto chiaramente. Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà loro perdonata. E chiunque parla contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi parla contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato, né in questa età, né in quella futura. Matteo 12, 31-32. Dato che la preghiera ha in Dio un potere illimitato, l'Apostolo Giovanni invita i credenti a rivolgere preghiere esaudibili, e non quelle che non possono essere esaudite, e cioè pregare per chi volontariamente rifiuta l'opera dello Spirito Santo, dato che il Dio Trino non può più operare a salvezza. Chi spera e dice che Dio alla fine perdonerà tutti, dovrebbe riflettere sul peccato che conduce a morte. Questo è un messaggio che non si vorrebbe mai annunziare. Ma il compito di un messaggero non è dare delle notizie belle o brutte, ma di riferire fedelmente le parole da trasmettere. Una di queste parole è la mancanza di perdono da parte di chi commette il peccato che conduce a morte. Novembre 2005. Ellero.